Intervista a Paola Gasparoli a Sì. casa sua la Sì. sera del 13 dicembre del 2023. Ciao a tutti ragazzi. Allora, la prima domanda, Paola, è se ti ricordi quando hai iniziato a partecipare alla Pantera e perché hai deciso di unirti al movimento. Allora, io non sono presente all'assemblea in statale, la lunghissima assemblea in statale. Io comincio con la prima assemblea scienze politiche. Premetto che poi io arrivo non da Milano, quindi tutto quello che è stato la politica su Milano precedente ne sono totalmente fuori. Arrivo da Gallarate, da 30 km di distanza, ma politicamente fanno una bella differenza. E non arrivo da un liceo pubblico. Io ho fatto il liceo linguistico, che ai tempi erano solo più o meno privati o regionali. Quindi anche la mia attività politica vera inizia con la Pantera, perché prima era un più guardare molto da lontano e senza neanche avere dei reali punti di riferimento. Sì, c'era un'attenzione a certe cose. So, lo sgombero famoso del Leoncavallo c'era e quella manifestazione ci sono stata, però era in maniera molto più esterna. Quindi l'arrivo a Milano per me rappresenta anche una differente, insomma, si aprono delle porte politiche completamente diverse. Quindi non sono mai entrata in nessun collettivo politico prima della Pantera, così come poi sono sempre una sorta di cane sciolto. Anche dopo, però con la Pantera inizia anche il mio attivismo politico più in prima persona che non i racconti del cugino che ha fatto 77 e via dicendo. Quindi io inizio con l'assemblea di occupazione a scienze politiche. E che cosa ti ricordi delle motivazioni dell'occupazione? Beh, io arrivavo da una scuola privata. E il fatto che una delle trasformazioni che la Ruberti iniziava era una privatizzazione dell'università, arrivando da una scuola privata, pur fatta, insomma, mi è piaciuto quello che ho studiato, c'era anche un buon rapporto con i docenti, però è chiaro che comunque rispetto a un'idea di Ateneo, in senso alto del termine, di un'università aperta a tutti, del fatto che già ai tempi, prima ancora della riforma Ruberti, l'università per i lavoratori diventava sempre più strette, no? C'erano ancora i corsi serali, ma erano solo su alcune materie, quindi l'università già di suo cominciava un po' a ristrutturarsi. L'idea che arrivasse attraverso una legge che di fatto apriva a tutta una serie di devasti culturali, non solo e si vedono adesso, perché alla fine avevamo ragione noi, è sempre questa la storia, non mi andava. E quindi volevo metterci il naso, capire quella che poteva essere un'altra proposta, che magari è vero che potevano servire delle innovazioni all'interno delle università, anche perché l'Italia è mastodontica nel muoversi, e volevo metterci il naso. Questo fondamentalmente è stato il. E poi non avevo mai fatto politica, anche quello friggevo un pochino. Quindi l'idea di ok, andiamo via, nuova vita, iniziamo, facciamo. Allora, gli elementi più attivi facevano parte di commissioni, cioè la prima assemblea della Pantera votò la costituzione di una serie di commissioni. Tu ti ricordi di averne preso parte, se sì, a quale? Allora, io dei ricordi, la mia memoria ha dei buchi notevoli, però io entro nella commissione stampa e ero anche l'addetta ai fax, era una delle mie cose, sti fax. E non so perché ho scelto la commissione stampa, forse perché la comunicazione, forse perché il parlare, forse perché in maniera del tutto errata, e l'ho scoperto più avanti, facendo uffici stampa vari ed eventuali, la vedevo un attimino più neutra. Quindi per una persona un attimino che non aveva tutto il bagaglio politico di altri, l'ufficio stampa mi sembrava un ambiente dove potevo muovermi con un attimino più di semplicità. E invece non è vero, perché adesso lo so che un ufficio stampa fatto bene fa il culo. Sì, Senti, ti ricordi degli episodi che ritieni particolarmente significativi dell'occupazione, che possono essere o delle assemblee o dei seminari autogestiti o qualcosa che è successo e che ha avuto secondo te importanza, come anche magari dei passaggi politici che hanno determinato delle svolte all'interno dell'occupazione? Allora, io non mi sono preparata, quindi anzi, stavamo sfogliando con Alberto che ho trovato tutta la rassegna stampa e ho appena scoperto che ero tra i querelanti di Bobo Craxi, mi ero completamente dimenticata, quindi faccio un po' fatica. Mi ricordo queste annose discussioni, il famoso voto col libretto, libretto sì, libretto no, che sembrava una roba molto burocratica, se vuoi molto da chiusura. Però ha salvato la scelta dell'occupazione, ha salvato in un'assemblea la continuazione dell'occupazione dura, quindi stare lì a dormire, chiusura della facoltà, chiusura del corso, chiusura degli esami. Quindi se idealmente l'idea del voto senza libretto poteva sembrare una roba molto più democratica, siamo aperti a tutti, in effetti è stato l'unico modo per fermare una serie di cammellamenti che avrebbero portato alla fine dell'occupazione e invece l'aver insistito sul voto col libretto. Mi ricordo che quella era stata molto dibattuta nei vari settori delle tante sinistre che ha raccolto l'occupazione a scienze politiche, abbastanza dura, però se per alcuni rischiava di tagliare fuori una certa sinistra dall'occupazione, di fatto invece ha tagliato fuori tutti i Cellini, tutti i Liberati, tutta quella marmaglia lì, e noi siamo riusciti a portarla avanti. Mi ricordo anche momenti molto cogliari, molto divertenti che ci sono stati, perché l'occupazione ha fatto tanta politica, però ragazzi, sarà lì 24 ore su 24, e ci sono state delle belle storie, divertenti anche, dalle notti di tensione quando c'era stato l'attacco dei fascisti a due compagni che uscivano dalla statale, quindi c'era stato, ricordiamo che non c'erano cellulari, quindi si andava con i telefoni fissi, con i fax, quindi le facoltà si era deciso di chiudersi dentro, che quella sera non ci sarebbero state attività aperte al pubblico, non ci sarebbero stati concerti, film, discussioni o spaghettate aperte agli amici, non ci sarebbero state le solite. Perché spesso si facevano i giri delle varie facoltà occupate anche per recuperare informazioni, documenti o cose del genere. C'erano stati poi dei giri intorno alla facoltà della famosa Renault Espace, erano le prime monovolumi che giravano per Milano. Mi ricordo portone chiuso, si passava dalla finestra se si doveva uscire. E mi ricordo che a un certo punto parte l'allarme, ci sono i fascisti, si sono i fascisti, e un grandissimo amico che ci piacerebbe a tutti rincontrare ha aperto un estintore. Prima e ultima volta che ho visto aprire un estintore, e non è una bella cosa, però anche questo faceva parte di come si viveva all'interno della facoltà a quel momento. C'erano le decisioni sulle partecipazioni a presidi anche in risposta a cosa accadeva in altre facoltà, magari lontanissime da noi. C'erano le reazioni ogni volta che arrivava il fax di una facoltà occupata. Quindi c'era questa sensazione. Quello che mi ricordo tanto era una sensazione di forte comunanza all'interno della facoltà, nonostante i dissidi politici, nonostante il dialogo politico all'interno tra i vari gruppi, forte unità tra le università milanesi piuttosto che italiane. C'era un po' questa sensazione di solitudine quando si usciva, che forse col senno del poi può essere la grande differenza che invece c'è stata con le occupazioni degli anni precedenti, quindi le occupazioni degli anni 60 e degli anni 70, dove invece c'era una società fuori dalle università, c'era un fermento sociale, una voglia di cambiamento talmente forte, problematiche sociali forte, che la connessione studenti-lavoratori, studenti e altro era forte. Quando invece noi uscivamo dalla facoltà c'è sempre stata questa sensazione di essere un attimino, che fuori non capissero l'importanza delle discussioni che stavano avvenendo all'interno della facoltà, come se le università non erano una parte fondamentale di quello che sarebbe stata la nostra società da lì a 10 anni, da lì a 20 anni. E ripeto, guardando cosa sta succedendo adesso e cosa sono diventate le università adesso, forse qualcuno dovrebbe ragionare molto sul fatto di aver lasciato quel movimento più isolato che non altri movimenti del passato. Ecco, Per l'appunto, tu che bilancio hai fatto poi negli anni successivi di quel movimento? Che avevamo ragione. Poi io non so dire, non lo sapevo dire allora, e adesso forse su questo in effetti non ci ho mai ragionato, come avremmo potuto fare di più, portare a casa di più. Però avevamo ragione in un momento dove invece il privato, il manager, la libera impresa, in senso anche come quella che era intellettualmente quella che avrebbe portato il paese chissà dove, avevamo ragione a vedere che lì c'era un pericolo, che la cultura non poteva essere legata a nessuna forma di profitto, a nessun interesse. Mi ricordo quando avevamo scoperto che scienze politiche, uno degli interventi dei privati sarebbe stato il settore assicurativo, come se il settore assicurativo avesse bisogno di una laurea. Ho capito, ma allora a questo punto, qualsiasi momento, so, oggi sono le assicurazioni, domani sono i call center, dopodomani sono un'altra cosa. Ok, ti do 4 miliardi e finanzi un corso universitario. No, l'università intesa come Ateneo dovrebbe essere altro, perché il rischio grosso era che poi le facoltà o gli indirizzi all'interno delle facoltà che veramente generano pensiero, penso a filosofia, antropologia, semantica, linguistica, filosofia, sociologia, a quel punto quelle non fanno profitto e quindi le eliminiamo, storia. Quando invece sono proprio quelle le facoltà che creano, che mantengono l'anima di un paese, storia dell'arte, archeologia, sono quelle. Le grandi figure anche del giornalismo non sono uscite da un'università per giornalisti, sono usciti da filosofia, da storia, da altri tipi di facoltà, quelle facoltà che ti danno la capacità di vedere una cosa, analizzarla, capire da dove arriva, perché si sa un pochino di storia, metterla insieme e capire dove si sta andando. Quindi quello probabilmente era il nostro punto forte, avevamo visto giusto. Dopo la Pantera, una parte del movimento ha deciso di costituire un collettivo che si è chiamato Collettivo Politico Universitario. Tu hai preso parte all'esperienza di questo collettivo per quanti anni? Allora, sì, nel senso che c'ero, lo frequentavo nei momenti di azione politica del collettivo all'interno delle facoltà, della facoltà all'interno della città c'ero, soprattutto il progetto delle controguide, piuttosto che altre azioni, c'ero, però avevo anche deciso che forse era ora di laurearmi, perché mi sono laureata fuori corso, ma tanto, tanto, tanto. Quindi avevo tirato un po' i remi in barca rispetto alla quotidianità che la politica necessita. Però c'ero sul CPU, quanti anni non te lo so Non te lo... dire, non, sicuramente tutta la prima parte del CPU, quando il CPU era all'interno dell'ex CUESP, meno quando eravamo nella parte più piccina, ma proprio per esigenze che vabbè, dopo 10 anni forse era il caso che mi laureassi, tutto qui. Però il passaggio al CPU quando arrivavo a Milano c'è sempre stato, il buio l'ho sempre comperato, ho sempre cercato di dare quello che potevo. Devo aver scritto anche qualcosa sulle controguide, me lo ricordavi tu Alberto, Ciao. l'ero già dimenticata, sulla laurea diritto delle comunità europee, un testo scritto da un analfabeta che ci impiegavi più tempo a capire la frase, dove iniziava e dove finiva, e poi dovevi tornare cercando di capire il contenuto. È stato uno sforzo intellettuale enorme quel testo. Però era importante che ci fosse una presenza politica all'interno della facoltà. Questo era fondamentale, dovrebbe essere fondamentale anche adesso. Peccato che adesso, per come hanno strutturato l'università, un po' hanno fatto la stessa cosa sul lavoro, non ci sono più i tempi. Quando io parlo con gli universitari faccio fatica a pensare a una laurea di 3 anni a un'università e dopo 3 anni fai una tesi. È un liceo e non hanno il tempo di sedersi e di confrontarsi, perché se perdono la sessione d'esame perdono l'anno, perché dopo un anno che sono lì devono già decidere che laurea fare, non hanno nemmeno il tempo di capire se hanno scelto la facoltà giusta per loro. Figuriamoci il tempo per creare conflitto, per rendersi conto che c'è un qualche cosa sul quale creare conflitto. E quindi era fondamentale che rimanesse una presenza politica all'interno dell'università. E ti ricordi, a parte le controguide, qualche iniziativa in particolare del CPU? Eccoci più che abbiamo murato la libreria dei Cellini. No, è durante No, è l'occupazione. durante l'occupazione. L'ho detto che non ero pronta, che la mia memoria è un po' così. No, ragazzi, chiedo scusa. No, mi ricordo, no, mi ricordo le iniziative dell'8 marzo delle donne, quando si era deciso che a noi la mimosa non interessava, ci interessava di più il mazzolino di Prezzemolo, perché erano ancora momenti dove comunque abortire non era per niente una cosa semplice, non lo è tuttora, anzi, stiamo tornando indietro, dobbiamo essere ancora lì a difendere queste cose. Cioè, mi ricordo queste cose, sicuramente c'era tutta la parte della controguida, di provare a parlare con le matricole, di capire dove l'università stava andando, perché poi la legge era passata a questo punto. Di specifico specifico faccio fatica. Va bene Paola, grazie per questa intervista storta a tradimento che hai letto le domande solo pochi minuti fa e basta, insomma, mi sono dimenticato di dire che io che raccolgo l'intervista sono Alberto Eroldi. No, io ringrazio Alberto, ma ringrazio anche l'altro Alberto, ringrazio tutti quelli che si stanno di nuovo mettendo in prima persona, di nuovo mettendo del tempo e del cervello per mettere insieme il materiale che si sta con difficoltà cercando di recuperare, perché qualunque movimento che abbia attraversato una società merita e deve rimanere come testimonianza. E ripeto, la Pantera, pur con i limiti che probabilmente abbiamo avuto, è stata comunque l'ultimo grande movimento universitario italiano. Al momento non ce n'è stato un altro dopo il nostro. Ed è giusto che venga rivalutato, riletto e capito.